Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah, sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me. Eravamo proprio qui, David, eravamo proprio qui, amico mio, quando ha sbroccato Pannella. Ero proprio in questo studio di roba dove non funziona una mazza. Non funziona un cazzo, te lo giuro, non funziona un cazzo. Adesso io faccio un appello ai non gliene frega niente la gente che sta ascoltando, ai tecnici di Milano. Se non mettete a posto questa minchia di studio con la luce rossa e la luce verde che non funzionano, non funziona, non funziona niente, sono al buio. No, non so quando sono in onda, quando non sono in onda. È una cosa incredibile, è una roba proprio da pera cottari. Roba da pera Cottari, vabbè, lasciamo perdere. Chiusa parentesi, messaggio pubblico. Messaggio pubblico, caro Parenzo. Eravamo proprio in questo studio qui a Roma quando c'era Pannella. Abbiamo sfasciato lui, anzi, ha sfasciato i microfoni, eccetera, eccetera. Noi, però, da quel momento abbiamo iniziato una sorta di saga contro il pannellone nostro. Ebbene, l'altro giorno ha sbroccato a Radio Radicale. Senti, e che non appena Renzi diventa non presidente del Consiglio, ma segretario. Sì, ma direi già quando è semplicemente candidato, questo l'hai detto, e poi se indicato, segretario, sì, sì, passa rapidamente a 2,4 miliardi di ascolti. Miliardi? 2,4 miliardi di ascolti, pari al 3% degli ascolti locali. Se tu tenessi presente che gli ascolti sono anche... Guarda, io tengo presente tante cose, però vorrei che lo spiegassi agli ascoltatori, non a me, perché gli italiani sanno che... L'obiezione era nel tuo volto e nella tua interruzione. Guarda, il mio volto era impassibile. 2,4 miliardi di ascolti. Pannella contro Bordin. I miliardi vuol dire perché se uno li ascolti, se ci sono, mettiamo, 200.000 o 2.000, quello che è, no, se ci sono 200 milioni di ascolti, milioni. Dunque solamente a una trasmissione di Santoro col suo, sì, adesso Santoro, a 4 milioni o 3 milioni, a 2 miliardi, come si allora fa? Allora, se tu a questo punto, come si fa a arrivare a 2 miliardi? Stabilisci che ce li hai per tutte le altre trasmissioni e in più per sì, i te... Lascia spiegare, perché qualche volta può non essere inutile perfino a te. S'approcio, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Ma perché? Perché non lo prendono e non lo mettono a riposo? Davide, perché non lo prendono e lo mettono a riposo? Ma perché dovrebbero metterlo a riposo? Lui è così. Ma dove cazzo sei? Ma non mi far arrabbiare anche tu stasera oltre lo studio di Roma. Ma sei in un parco? Dove sei? In un parco pubblico con tua figlia? Ma devi lavorare, sono le 18:30. Basta, chiudiamo, stasera non trasmetto. Basta, chiudiamo. Qua non funziona una mazza. Parenzo al parco con la figlia. Io divento pazzo, ma dov'è? Al parco con la figlia, ma dov'è? Dove sei? Non sono al parco. Dove sei? Che sento gente intorno. Ma c'è gente intorno per forza, perché sto andando a casa di questo amico gallerista in Toscana con mia figlia e il figlio stai suo piccolo. Andando a casa in Toscana di un amico gallerista. Ma siamo alla folle, sono le 18:38 no, di venerdì, bisogna lavorare. Ti devi rilassare perché c'è un paesaggio meraviglioso, i colori della Toscana. In questo video mi raccontava questo mio amico gallerista che mi ha invitato a cena in questo posto stasera, quindi magari. No, ma tu devi stare fermo. Devi la bellezza dei posti, no? Ma devi stare fermo, devi stare fermo. Stasera cerchiamo di invitare altre persone, anche questi ascoltatori, questi violenti, queste cloacche che ogni tanto chiamano, si rilassino. Guarda, qui ci sono dei colori, sono Ettore si chiama questo amico carissimo, posso dire anche il cognome? Certo, Ettore Guastalla. Cioè, sarà carissimo. Il solito milionario amico tuo, dove vai a cenare, milionario, gallerista, milionario. Sì, gallerista, milionario. Non è milionario per niente. Vabbè. È una persona che lavora. Senti, prezzo, a me non mi interessa dove sei o dove non sei, con i tuoi amici milionari, galleristi, magari pure gay e froci di Milano. Cioè, no, non mi interessa. Non è gay assolutamente. Di solito i galleristi sono gay, però lasciamo perdere. A me non mi interessa dove sei. La cosa fondamentale è che tu devi essere fermo. Devi essere fermo, immobile. Devi essere fermo, immobile. Beh, hai detto una cosa molto grave, però. Musica, musica. Siamo come lei, siamo come lei. Oliviero Toscani ancora una volta scatenato contro la Lega, scatenato contro il sindaco di Padova Bitonci, promette una class action contro di lui, sentite. Arriva, eh? Arriva, arriva. Beh, oggi siamo così, oggi siamo a Radio Sgurgola Marsicana oggi. Oggi non è questa, non è Radio 24, la Zanzara, la trasmissione che conoscete, no. È un'altra roba oggi. Non si sente una mazza, i microfoni non funzionano, le luci non funzionano, i file non partono. Benissimo, Toscani, Bitonci, class action con... Vediamo come lo devo dire prima di mandarlo. Quando lo devo dire in caratteri cubitali, come lo devo mettere? Via! No, ma io non ce l'ho con i cittadini padovani, ce l'ho con quei subumani che hanno votato Bitonci. Io trovo che sia un subumano e basta, e gli farò una class action con tutti quei cittadini che non l'hanno votato, che lo detestano e che la pensano come me, e ti posso garantire che sono tanti, e vinceremo la causa e la daremo in senza tetto per fargli una casa, non male, no? Ma la dichiarazione che ha fatto discutere di Toscani è quella sul crocefisso, perché sapete che Bitonci, il sindaco di Padova, vuole mettere un crocefisso in tutti i luoghi pubblici. Sentite Toscani sul crocefisso. Sì, senti, ma il crocefisso per te che cos'è? Ma è abbastanza pornografico come immagine, eh? C'è uno attaccato, inchiodato su una croce. No, ma è abbastanza incredibile. No, ma scusa, guardalo bene, adesso non fare il cattolico, pensa di arrivare da un altro mondo. Vedi una persona così in questa condizione. La pornografia non è solamente sesso, è anche quel gusto lì, insomma. Ma dico, è l'immagine di un sadismo incredibile. Per di più, davanti al quale tutti ci inginocchiamo, mi sono sempre chiesto. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare, siamo ancora qui, siamo ancora qui. Sembrava una giornata tranquilla, invece mi sono dovuto incazzare per forza. Comunque, una delle cose più vergognose che ho letto, devo dire che mi fa incazzare, sì, questa questione di Anna Maria Franzoni. Ma io non ce l'ho con la Franzoni. Perché voglio che le persone restino in galera a pane e acqua tutta la vita. Il punto non è quello, ma vi pare possibile? Io forse ridurrò la questione a brandelli, ma vi pare possibile che una persona dopo sei anni, ieri abbiamo detto 12 ma era 12 dall'omicidio, sei anni passati in carcere per aver ammazzato il figlio, sentenza definitiva, lei si proclama innocente, perché anzi se la piglia pure contro non so chi l'ha trascinata in questa situazione, mi sento perseguitata, avrebbe detto a uno psicologo, a un consulente, eccetera eccetera. Dopo sei anni anche una marea di permessi premio, una marea di permessi premio ottenuti, va benissimo, abbiamo un sistema super garantista, quello che vogliamo, adesso fuori dal carcere, ma è una vergogna, lo vogliamo dire chiaro e forte che è una vergogna, ma io non lo dico, può essere la Franzoni, può essere qualcun altro, è una vergogna. Se va fuori la Franzoni, allora assassini in libertà, assassini in libertà. Oh, abbiamo con noi Paolo Crepè, buonasera. Ciao Paolo, come stai? Buonasera, ottimo. Ciao, intanto ciao. Saluti a Guastalla. Saluta. Che è di Livorno. Che è di Livorno, è livornese, bravo, è livornese, certo, livornese. Certo. E non è gay, io ho detto gay perché i galleristi, no, non so. Ah, è bravissimo. Vabbè, ma non è che sia un delitto, molto non è che... bene. No, per l'amor di Dio. Non è che gli ho dato del delinquente, No, rispondi la porta aperta. Appunto. Senti, ma io sono troppo duro su... E poi c'è ragione, siccome io sono un padovano di crescita, volevo dire che c'ha 100.000 ragioni Toscani, non una, 100.000. Cioè, secondo te, tu sei padovano mi di vergogna. Nascita? Non di nascita, ma ho fatto tutta la mia vita scolastica, fino alla laurea compresa, mi sono laureato a Padova. E pensi che sia una vergogna? Sono padovano. No, mi vergogno di che quella meravigliosa città, che fu anche di Galilei... debba passare questi momenti così tristi. Cioè, ti vergogni del fatto che abbia letto un sindaco che vuole prendere una cosa tremenda. Però, siccome poi probabilmente la maggioranza vuole quello, che si arrangino. Ma non ho capito, definiresti anche tu, come lo definisci questo sindaco di Padova, Bitonci? Ma non lo so, io non lo conosco, sento quello che fa, che dice, insomma, mi pare uno. Così, una cosa vergognosa, prendere ma i provvedimenti. Sì, ma sembra la cosa di Treviso di 20 anni fa, con quello che toglieva le panchine per non far sedere i poveri lavoratori di colore. Cioè, sì, no, una schifo sì. Terribile. Una schifezza. Una cosa, sì, una schifezza. Umanamente una roba detestabile. Poi non lo so. Poi anche questa cosa del crocifisso. Ma io non capisco, io non sono cattolico, per cui sì, no. Sì. Però non capisco perché non mette un bambino Gesù. Ah, invece del crocifisso. Ma sì, è un torturato a morte. Ma perché l'immagine deve essere il torturato a morte? Vabbè, quella però siamo nel campo dell'iconografia della Chiesa Cattolica, delle immagini. Ho capito io, ma siccome ci sono anche nella Chiesa Cattolica c'è anche il bambino Gesù. Perché non mettere il bambino Gesù? Che sorride, visto che insomma deve stare anche 5 ore in un liceo che tutti i ragazzi lo guardano. No? Meglio quello dell'immagine del crocefisso. Beh sì, perché è una roba che ti fa venire l'angoscia, no? Un attimo solo, abbiamo uno sulla sedia elettrica. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. È ancora in casa. Passa in blanco. Mañana io sono stanco. Allora, voglio sapere se Parenzo si è già adagiato sulle colline toscane, lui l'amico dei poveri, l'amico di quelli che stanno male, l'amico di quelli che stanno male. Questa sera in un posto scicchissimo, ricchissimo della Toscana, a sorseggiare, a pasteggiare, anzi non è nemmeno arrivato, dunque ci rompi i coglioni a noi che vogliamo lavorare invece. Io sono arrivato, come? Perché sono a casa di questo amico carissimo che mi ospita per cena assieme a mia figlia e mi sta preparando, se vuoi anche te lo passo, no, adesso no, dopo un aperitivo, mi sta preparando su questo terrazzo un aperitivo straordinario con delle scagliette di grana, delle vergogna, olive. Vergogna. Cosa vergogna? Vergogna, dovresti lavorare, la gente io è incazzata. Ma siccome lavoro anche ho bisogno di avere degli zuccheri mentre parlo. Ecco, c'ho dei turisti inglesi, ad esempio, cioè in questo posto c'è serenità, non c'è lega, posso dirti, sentivo prima il crepè, no? Il professor sì. Crepè. Qui in questo angolo di Toscana ci sì. sono immigrati, c'è gente civile, gente che saluta. Ragazzi, però state dipingendo Padova come no, un posto, Padova, come un posto città, dove ci sono i militari della Lega, i militari della Lega che sparano contro gli immigrati, no, dai, su. No, però qui nessuno si sognerebbe mai di fare un'ordinanza, ad esempio qui in Toscana, contro i barboni. Ma che roba è? No, a me l'unica cosa che mi fa incazzare qui a ragione Crepè e qui a ragione Crepè è questa roba del crocefisso. Cioè, questa roba del crocefisso è assurda. Tra l'altro, io invito tutte le scuole di Padova, caro Crepè, oggi già qualcuno ha iniziato, qualche scuola dice no, noi non vogliamo. Qualcuno voleva imporre il crocefisso, ma noi abbiamo deciso come collettivi, come organi di istituto dire molto di no. Bene. Diciamo di no a questa roba. Scuole laiche di Padova, dite no a questo crocefisso, a questa imposizione che vi vogliono fare. Uffici pubblici, ribellatevi. Allora, Crepè, che ne pensa lei della vicenda invece Franzoni? Sono troppo duro io? No, lei non è affatto duro, è una riflessione che ha anche dei contenuti così che fanno anche un po' sorridere. Penso per esempio a questa cosa che deve fare la psicoterapia. Sì, sì. Allora la signora deve fare la psicoterapia. La psicoterapia consiste, lo leggo dai giornali, poi spero che i giornali si sbaglino e quindi io stia dicendo una cosa sbagliata. Però era su tutti i giornali stamattina. Sì. che incontrerà uno psicologo barra psicologa due volte al mese per un'ora per sei mesi. Sì. E questa sarebbe la psicoterapia. Se questa è psicoterapia, io sono Garibaldi. Cioè lei dice non serve a nulla questa roba. ma scusa, allora, se questa è condannata per avere massacrato un bambino, sì o no? Sì. Sì. Non c'è anche se l'avvocato Taormina dice che è innocente, però esiste un ordinamento che prevede che al terzo grado di giudizio, almeno al terzo, uno se uno è condannato per una cosa è perché l'ha fatto, giusto? Sì. Allora, una signora, una mamma che ha massacrato un bambino, le può bastare una psicoterapia di una volta ogni 15 giorni, un'oretta? Cioè dovrebbe essere ogni giorno, dice lei? Beh no, non lo so, una cosa un po' diversa, perché per sei mesi è per noi come dire 5 minuti. Sì, soprattutto quel ritmo lì. E questo è, ma questo sembra un dettaglio, però rientra in questa sorta di buonismo che parte da un pregiudizio positivo su tutte le mamme. E purtroppo le mamme sbagliano. Certo, no, ma io volevo sapere, secondo lei... Anche le mamme assassine, e cosa vogliamo farci? Non è colpa di nessuno, non è che... però se una signora ammazza un bambino e fa sei anni di galera... Sì, è una allora vergogna. Questa cosa semplicemente deve essere applicata a tutti. Esatto, anche gli assassini, come dire. Tutti quelli che hanno ucciso un bambino devono fare al massimo sei anni di galera, dopo anche gli altri, vanno nelle colline bolognesi a fare i servizi. Ma anche gli altri si potrebbe dire, anche gli altri, non solo quelli che hanno ammazzato un bambino, persone. No, adesso stiamo parlando della fattispecie dell'infanticidio, no? Limitiamoci a quello. Ecco, tutti quelli che, visto che una sentenza fa giurisprudenza, giusto? Sì. Allora, ma questo è corretto. Senta, ma lei, secondo lei, andando in televisione, lei molte volte l'ha vista di fronte, no? Se lo ricorda la Franzoni? Sì, la come no, sì. No, una volta l'ho vista. Una volta proprio, nel senso che ci siamo incontrati, le altre volte era in collegamento. Non è stata rovinata dal fatto di essere stata portata in televisione? Anche dal punto di vista giudiziario? Sì, la famosa intervista con Costanzo credo che sia stata una ma anche delle Vespa, cose che ha anche fatto. Da Vespa. Ma anche da Vespa, però quella di Costanzo fu la prima. Il pianto che sembrava ai più, poi magari naturalmente non sarà vero, ma sembrava un po' così, un po' teatrale. Sembrava. Io sono stato un colpevolista da sempre, da quando ho sentito che cosa era successo, io ho pensato che fosse lei. E non mi sono sbagliato, però tanti non la pensavano così. Io ho avuto anche che effetto ha avuto il professor Taormina, l'avvocato Taormina, su di lei? Ma non lo so, nefasto, positivo, non lo so, c'è chi dice che se non avesse fatto il rito abbreviato forse avrebbe preso l'ergastolo, sarebbe stato diverso, non lo so, o forse si sarebbe preso 25 anni. Parenzo, dove sei? No, ma io dico che il professor Crepè forse sta esagerando, perché in questo modo lui sconfessa i suoi colleghi che hanno disposto questo tipo di perizia per lei, cioè hanno detto tot sedute con lo psicologo, eccetera. Cioè vuol dire che o sono incompetenti questi... No, ma per l'amor di Dio, io non conosco clinici. Il professor Belloni che ha firmato questa perizia, immagino che sia così, ma vede, non è un problema, abbia pazienza. Allora, il fatto che una mamma certamente non compierà di nuovo quel reato è ridicolo, non significa uscire. Sì, certo. Perché certo. Allora uno dice, no? Ho fatto una strage, no? Giuro che non lo faccio più. Oppure sono sicuro, sicurissimo che quello, siccome ha eliminato l'odio contro non so chi, eccetera, eccetera, quindi si è in qualche modo sfogato e basta, ma chi l'ha detto che non lo fa più? Chi l'ha detto? No, ma io faccio lo psichiatra da 1976, quindi chi l'ha detto? Dunque, questi qua che cosa sono? Io non lo so, forse il professor Belloni lo saprà. Ma sono incompetenti? Come sembrano incompetenti? No, io massimo rispetto, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, anche perché è lui che ha fatto la perizia, non l'ho fatta io, quindi ci mancherebbe altro che io facessi il grillo parlante senza avere incontrato per tante volte la signora Franzoni. Quindi immagino che sia così. Io sto dicendo bene, benissimo, quindi applichiamo questo principio a tutti. A tutti. Grande amico del mondo gay, grande amico vostro e ammiratore, e un saluto al pubblico e a voi diavoli scatenati, scatenati. Salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba batto spesso qui si corica. David? Sì? Allora, un tuo caro amico che si chiama Luigi Manconi, il signor Luigi Manconi, che è un senatore del Partito Democratico, nonché un sociologo, lo possiamo definire così, un sociologo. No, possiamo, è un sociologo, certo. Possiamo. È un sociologo, nonché compagno della signora Bianca Berlinguer. Beh, questo è un altro, è un dettaglio, comunque. Tanto l'abbiamo detto. E soprattutto un intellettuale italiano. Un intellettuale italiano, scrive, non si sente una mazza, scrive Dago Spia e la Zanzara. Non si sente niente, perché dalla regia mi hanno detto che si sente benissimo. Quindi. No, si sente male, punto e basta. Dago Spia e la Zanzara, rimettetevi in collegamento con quel cretino. Dago Spia e la Zanzara sono i luoghi sublimi di questo degrado compiaciuto e complice, dove quel tanto di volgare che in ciascuno di noi viene adescato e blandito, solleticato e appagato. Dago Spia e la Zanzara sono le documentatissime fotogallerie della mostruosità contemporanea, in primo luogo del sistema politico e mediatico, ma in realtà di tutti i sottosistemi della società nazionale. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Lussemburghese Juncker, presidente della commissione, sconfitto Cameron, che insieme all'Ungheria vota contro e minaccia, ve ne pentirete. Renzi al vertice, chi fa le riforme ha diritto a più flessibilità. E poi sull'ipotesi Letta per il Consiglio europeo, nessuno ha fatto il suo nome. Riforma del Senato, presto la prova dell'Aula, il Premier sorprende che la minoranza PD riapre il tema, 5 Stelle e noi arrivati al momento giusto. Folla a Scampia per i funerali di Ciro Esposito, ci sono anche i giocatori del Napoli, la fidanzata ora sotterrata la violenza, lunghi applausi alla mamma. Il giallo a Roma, scomparsa l'imprenditrice Giorlandino, aveva denunciato episodi di stalking, ma non si esclude l'allontanamento volontario. In Africa il virus Ebola fuori controllo, centinaia di morti in 11 paesi, allarme di Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità. Chiellini perdona Suarez dopo il morso costato all'uruguaiano 4 mesi di squalifica, sanzione eccessiva per il difensore della nazionale. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well, there is. Carrellata ancora su Balotelli, che è tornato a Brescia, caro Parenzo, a casa sua in Ferrari insieme alla fidanzata. Adesso a me, per carità, non me ne frega assolutamente nulla, uno può avere la Ferrari, certo non sono un pauperista, uno si vuole comprare la Ferrari, si compri la Ferrari. Però io dico che la Ferrari, come le macchine di questo tipo, fanno male ai calcio, fanno molto male, si sentono, come ha detto l'altro giorno qui Tommazzi, si sentono degli dèi, c'è l'idolatria. Ma io non mi comprerei mai una Ferrari, anche perché non posso, non ho le possibilità. A me non mi piace, ma a me fa orrore la Ferrari, figurati un po'. Vabbè, orrore, non me la comprerei mai perché la considero un po' burina. Grande rispetto, dottor Montezemolo, Sì, appunto, sempre. Però, perché tu se mi fa schifo la Ferrari, cosa. Mi fa schifo, Che un calciatore non si possa comprare la Ferrari, vuol dire il calciatore è Ferrari e donne bellissime, questo ma è. No, ma dai, nell'immaginario diciamo quelle. Ma tu hai mai visto un calciatore? Sentiamo vicino. Marco Tardelli. Ma italiani. Hai mai visto tu un calciatore vicino a una Befana grassa senza denti? No. No, vabbè, che c'entra? Italiani scemi contro Balotelli, se la piglia con gli italiani, Tardelli. Fra l'altro ci sono anche degli stupidi italiani che hanno detto che lui non è italiano e lui a volte l'altro giorno ha, anche ha fatto su Instagram però, questo messaggio dicendo me mi avete scaricato, i negri non mi avrebbero lui. Scaricato, non l'ha scritto lui. Secondo me non l'ha scritto lui quel messaggio lì, se vai a vedere bene si capisce che non è una sua idea, è stata una protezione da parte di qualcuno secondo me sbagliata. Se c'è una cosa sicura è che quel post lì, quella roba su Instagram o come diavolo si chiama quel social che ha utilizzato Balotelli, è che l'ha scritta lui, cioè era scritta in un italiano tipico di Balotelli, tipico. A proposito di denaro, Vittorio Feltri dice che con 5.000 euro non comincia neanche il mese. E si guadagnano dei soldi allora con i libri o no? Non ho pochi, capito. No, pochi. Ma tu in particolare pochi. Ne prendi di soldi? Cioè pochi, non sufficienti per soddisfare la mia avidità. Cioè nel senso che tu per esempio con 5.000 euro al mese non potresti campare, diciamo la verità. Ma neanche, non comincio neanche il mese. I'm nature's mosquito. Oh, siamo ancora con Paolo Crepè, psichiatra, con noi. Paolo, voglio chiederti sì? Il profilo di Balotelli. Terribile questa frase, questa è terribile questa frase. Perché dici? Perché dici? Ah, perché offende milioni di persone. Beh, effettivamente ci hanno scritto un po' di gente, ci hanno scritto un po' di persone incazzatissime. Direi. E dice che con... A proposito di soldi, ma scusa, quando tu onestamente qui da noi dicesti quella cosa lì sulla Rai, poi che è successo con Vespa? No, non lo so. Ti ha fatto sono fuori? Arrabbiati. Ma no, perché quando uno dice la verità in un momento di restrizioni, di cose, io faccio anche per la... Poi vedo che il primo ministro vorrebbe un po' tagliare, no? La Rai, la Rai sì, è sì. Un'azienda così florida. Quindi il fatto che uno dica che prende... poco quel giusto, non so se sia poco, io penso che sia anche abbastanza giusto, poi c'è qualcuno che si inalbera, cioè Vespa si è incazzata e non ti chiama più, diciamo la verità. Ma non lo so beh così mi hanno detto, così mi hanno riferito. Vabbè, sì, ma queste sono le chiacchiere, però chi se ne frega. Lei sa benissimo che poi i media sono strani, no? Beh sì, su questo non c'è dubbio che siano strani. No, nel senso che magari oggi ti odiano, domani ti adulano. Ah beh, non c'è dubbio, passa un po' di tempo e poi dice vabbè, caro Paolo, torna con noi. Sì, diciamo. Basta che succeda qualche cosa, per cui non facendo finta di niente. Non mi sorprende niente, va benissimo così. Aspetta che non ti sento bene però Paolo, dove sei? Ti sei spostato? No, sta benissimo, sto qua, fermo. Non ti sorprende niente, però comunque fatto sta che da quell'intervista in poi non ti chiama più, non ti ha più chiamato, questa è la realtà. Beh, ma non mi pare che ci sia stata neanche motivi, perché poi a me non è che mi interessa molto la cronaca nera, punto. Quindi non c'è stato nemmeno motivo. Devo dire che sono pensante, quindi posso anche pensare di altre cose. Di altre cose, infatti. Ma sì. Ma secondo te Vespa... quello che dice Sting, che mi interessa molto di più. Quello che ha detto Sting, ne abbiamo parlato ieri con Feltri, che è d'accordo con Sting, cioè di non voler lasciare manco un euro ai suoi figli. Ha detto una puttanata, secondo te? Ma non lo so se poi esattamente così, ma se una volta tanto potrei anche essere d'accordo perfino con Feltri. Scusa, tornando a Vespa, ma secondo te è eccessivo il fatto che prenda, credo, 1.900.000 euro dalla Rai oppure no? Cioè sono tanti soldi, sono dipende troppi. Voi sapete benissimo che è come Balotelli, no? Cioè se poi ci sono dei contratti pubblicitari tali per cui se gioca Balotelli c'è lo sponsor, se non gioca non c'è lo sponsor. Sì. È come la Carrà, come voi ben sapete, portava molta pubblicità alla Rai, per cui era legata a lei, non alla trasmissione, quindi uno dice guadagna molto, ho capito, però porta anche tanto, quindi sono il caso di Vespa, no? Forse non lo so, bisogna vedere gli ascolti, le cose, lo sa la Rai. Tornando a Balotelli, della Rai. No, certo, il profilo psicologico di Balotelli secondo te qual è? Te lo sei immaturo. Mai chiesto? Immaturo. Sì, certo, una persona immatura, come del resto non è l'unico. No. Ecco, forse lui si vede di più. perché è più esplosivo, perché forse anche se l'è cercata facendo un po' il fenomeno, forse perché ci sono state delle eccessive aspettative nei suoi confronti, quindi è una persona che sicuramente poi non ha avuto una vita poi così, perché essere adottati non è la cosa più felice del mondo. Diciamo anche questo. Ma gli servirebbe qualche aiuto dal punto di vista psicologico, secondo te? Oppure non credo che una persona del genere andrebbe neanche, se tornasse a vivere Musatti, non riuscirebbe nemmeno lui. Quindi no, a cambiarlo, no, cioè, è tutto inutile, secondo te? No, assolutamente no. Ma non è che la psicoterapia fa bene a tutti, quindi ci sono delle persone che sono proprio refrattarie. Cioè, e lui è uno di quelli, secondo te? Certo. Ma se questa cosa dei negri con cui sono usciti i fratelli negri, poi tra l'altro smentita da quei litigi pazzeschi che ci sono stati nella nazionale del Ghana, non è una stupidaggine colossale? Cioè, una roba che... No, a parte che io penso che chi è nato in Italia è un italiano, appunto, che poi sia rosso, blu, o giallo, francamente non me ne può portare niente. Se è musulmano, è musulmano, se è buddista, è buddista. Se è cristiano, è cristiano. Ma quindi non capisco, cioè mi pare una cosa un po' provinciale questa cosa di usare come un fiume carsico la razza quando ti fa comodo. No, secondo lui, esatto, sì. Secondo lui ci sarebbe più umanità, cioè i fratelli neri o negri, come dice lui, come anzi lui dice, noi diciamo negri, i fratelli neri sarebbero più solidali, non mollerebbero mai un loro fratello. Ma queste sono delle puttanate. Ma non lo so. Non mi pare che sia esattamente così, visto i massacri che ci sono in Centro Africa in questo istante. Quindi esatto. Ci sono neri che stuprano ragazzine prese da un college, donne che rischiano di essere impiccate solo perché si sono sposate con un cattolico, e sono tutti neri. Quindi io non, guardi, è sempre la solita cosa, io non credo alla genetica, è molto semplice, così come non ho mai pensato che le donne siano migliori degli uomini e viceversa. Non si figuri lei se penso che i neri siano più bravi dei bianchi o meno bravi dei neri. Se le lasciamo queste idiozie a Hitler e a tutta l'eugenetica che è nata in quel periodo. Ma qualche leghista le sembra qualche volta un piccolo Hitler quando fa dei discorsi sui Rom, eccetera? Sono provinciali, quali Rom? Bob Dylan era figlio di Rom, lo vogliamo togliere dalla storia della musica del Novecento? Io no. Parenzo, che dicevi? No, voglio dire che, tornando alla vicenda di Porta a Porta e di Crepé, cioè Porta a Porta senza Crepé è un po' come bere dello champagne caldo. Questo la ringrazio molto, giuro che non ho dato nessuna elargizione. No, ma neanch'io, né sono ancora passato nella Parenzo, sei il solito leccaculo. No, ma guardi, io vuole sapere come ne penso. Io penso che le cose abbiano un inizio e una fine. È così, vi devo interrompere. Saluto Paolo Crepè, grazie. Abbraccio. Buona serata. L'importante, volevo proprio dire questo, non è leggere il mio libro, è comprarlo, poi potete anche buttare. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, bella è Roma, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Pellegrin, Radio Padania. Gli stranieri non ubbidiscono al bambino scemo, cioè sta dicendo che sostanzialmente gli stranieri non ti ubbidiscono. Non chiamano in massa Radio Padania per trasformarla in che cosa? Per trasformarla in Radio Islam. Non chiamano, Parenzo, mi dispiace, non chiamano, non ti ascoltano. Il bambino scemo è nato per obbedire e quindi non è certo nato per comandare. Quindi può darsi che invece ci siano tanti stranieri, ma non essendo stupidi gli stranieri non obbediscono a un bambino scemo, ovviamente. Stranieri che ci telefonano ne abbiamo tanti comunque e ne siamo ben contenti. E a differenza di Radio 24 della redazione della Zanzara, noi non abbiamo mai filtrato nessuno. Quindi quando telefonano, telefonano. Invece pare che dalle parti della zanzara non sia proprio così libera la telefonata. Caro Pellegrin, vabbè, mi metto a ridere davanti a questa cosa, perché sapessi come vengono filtrate qui le telefonate. Qui possono chiamare tutti, dai matti a quelli ragionevoli, a quelli che sputano, a quelli che attaccano Parenza, a quelli che lo insultano, a quelli che parlano di froci, a quelli che parlano di sesso, a quelli che parlano dei propri cazzi. Tutti possono chiamare questa trasmissione, capito Pellegrin? Chiaro? Poi mi chiama Gerarchetto Pampurio. I cospicui stipendi, contratti, spettanti al Gerarchetto Pampurio. Ah, oh, il Gerarchetto Pampurio, parla così, non è mica colpa mia, oh. Sembra un Gerarchetto. Sono anche soldi nostri, non direttamente, ma indirettamente sono soldi nostri. Quindi sarebbe un'operazione di trasparenza che Cruciani comunicasse apertamente quanti soldi prende, quanto è il suo contratto con Radio 24. Bella e libera, guardavan. Varin e Pellegrin, in particolare Varin e Pellegrin in questo caso, non sanno nulla, perché lasciamo perdere, va. Comunque, amico mio, ti dà fastidio che guadagno molto più di te, Pellegrin? Ti dà fastidio questa cosa, che guadagno molto più di te, che guadagno, che ne so, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220? Vuoi sapere la mia prossima dichiarazione dei redditi, a quanto monta? Quando la faccio? A giugno, adesso, a luglio te lo dico, lo comunico, capito? La mia dichiarazione dei redditi te la comunico ufficialmente, capito? Non ho problemi da questo punto di vista. Ti dà fastidio? A me no. Marco il territorio come un maschio alfa. Cruciani, mi raccomando, no, raccogli le sfide. Tu sei un maschio alfa, devi raccogliere le sfide, no? Devi marcare il territorio. Quindi spiega ai tuoi ascoltatori quanti soldi prendi. Spiega anche che Confindustria, il padrone che ti dà i soldi, prende 20 miliardi a fondo perduto e il tuo gruppo editoriale prendeva 80 miliardi, 40 milioni di euro l'anno per molti anni. Il Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Figlia della libertà. Vabbè Parenzo, ma che fai? Stai zitto, che fai? Ripeto, a giorni un gruppo di migranti numeroso, composto da cinesi, da rom, da clandestini, da nigeriane, chiamerà in diretta, ciao cara, chiamerà in diretta Radio Padania per giorni e giorni e trasformerà quella radio, oggi fucina il luogo di odio e di razzismo, nella più grande radio multietnica d'Europa. Sbarcheremo, uso questo termine volutamente, sbarcheremo in massa e illegalmente in quelle frequenze, sbarcheremo illegalmente e non ci saranno cannoni, cioè le vostre parole, a fermarci. Le vostre parole non ci fermeranno, perché la bella manna pum chiamerà nella vostra radio. Sfonda il muro di onnipotenza. Alessandro da Padova, buonasera. 800240024, Alessandro. Sì, ma io volevo vedere proprio il 740 di Parenzo, perché veramente è una vergogna mettere in onda una roba del genere, insomma. spero sia finita la campagna mediatica contro il povero Bitonci. Manca solamente Balasso nelle vostre liste di bellissime interviste. Poi non capisco Crepè, che cazzo sarà dagli anni 60 che lo mette piede a Padova e parla della città del Giotto, della città della gatta melata, questo e quello. Ma vorrei vedere adesso, se faccio un giro in Prato della Valle, faccio un giro in centro, io ho lavorato per 5 anni davanti a Via Anelli, è una cosa impressionante. Con la mia cugina di 10 anni si sono venuti vicini a offrirmi della roba, e questo Parenzo lo sa benissimo, perché bene o male a Paolo ha ragione Alessandro, però non c'è nessuna campagna, lei ha detto una stupidaggine. Ha ragione nel merito, nel senso che se hanno votato Bitonci, un motivo ci sarà, e in parte quello che lei adesso ci ha detto, in parte quello che ci ha detto, ma qui non c'è nessuna campagna contro Bitonci, perché qui reggo il timone io, e le dico la verità, fossi stato a Padova avrei sicuramente votato per Bitonci, glielo dico molto chiaramente. Ma perché lo so, perché mi conosco e so benissimo che se fossi stato a Padova avrei votato per Bitonci, per cui Alessandro, qui non c'è nessuna campagna contro il sindaco di Padova. Crepè non l'abbiamo invitato per parlare del sindaco di Padova, è capitato perché ha ascoltato delle robe. Fai parlare un attimo Alessandro, capito? domanda che ha fatto, la sua prima domanda che lei ha fatto su Padova, quindi non è che... No, non ha fatto nessuna domanda, è intervenuto lui, no, perché ha sentito le cose di Toscani ed è intervenuto lui, capito Alessandro? Non c'è stata nessuna, non c'è alcuna campagna qui, sia chiaro, non c'è alcuna campagna contro il sindaco di Padova e noi non rispondiamo, non rispondiamo delle parole dette dagli altri. Che io non condivido. Balasso, vi manca solamente perché? Balasso. Perché? Che c'ha sto Balasso? Che ha fatto? Lega un po', si è preso anche lui un po' di titolini sui giornali, insomma, un altro che denigra il comune di Padova, per carità. Non dico che il centrodestra del Veneto abbia fatto chissà che cosa, ha fatto anche loro i loro casini, però... Ma io critico nel merito, io critico, non Bitonci. Sì, ma non ti sei indignato per le cose di Toscani, anzi ridevi per le cose di Toscani. Ma io critico nel Toscani ha usato, Toscani ha fatto delle iperbole. Ma sì, iperbole. Alessandro, dica qualcosa a lei però. No, no, adesso tu devi criticare nel merito anche la tua giunta di centro-sinistra, il tuo amico Rossi, il tuo amico Zanonato, mai una parola negativa nei loro confronti, mai una parola negativa nei loro confronti, perché ti conosco Parenza, perché ti conosco? Ma non è, no, guarda, intanto dici ti conosco, io non abbiamo mai bevuto un aperitivo insieme, mai lo bevevo. Ma figurati, non ci conto neanche io. No, scherzo, io lo bevo con tutti, tranne con i nazisti, con tutti gli altri lo posso bere, ma con i nazisti no, e con i fascisti neanche, ma con persone civili posso berlo. Molto più interessante andare a bere una cosa con i nazisti, hanno qualcosa da raccontarti, almeno di originale. Ma mi fanno schifo. Grazie Alessandro, Michela, provincia di Roma. Michela, no, voglio dire a questo una cosa però. Che vuoi dire? Qua. Avanti, su. A questo signore qua, io vado nel medio delle questioni, cioè Bitonci, il primo atto che ha fatto, poi ne farà altri meravigliosi e sarò il primo a dirlo quando farà atti meravigliosi. Se il primo atto che ha fatto è questa delibera contro i barboni e contro gli accattoni, mi pare una cosa disumana, ma smettila. Il decoro delle città è fondamentale, non torniamo su questi argomenti, è fondamentale. Michela, provincia di Roma. Michela. Sì, pronto, buonasera. Io volevo intervenire sul discorso che facevate ieri del passaggio dei deputati Cell al PD. Sì, sì. Rispondendo all'ipocrisia solita di Parenzo, mi spiace di doverlo insultare come tanti altri ascoltatori, che tra l'altro si sta risentendo anche questa sera. È ipocrita dire che quelli di Cell lo hanno fatto in virtù dei principi ideologici, certo, a seguito di una... Questo. Sì, come no? No, certo, l'approfondita riflessione politica, perché a sinistra gli 80 ti euro, cosa, gli 80 gentile, euro, ma ho detto un'altra cosa, gentile signora, che però non si lava le orecchie la mattina. Ho detto semplicemente... Stai dicendo che è una zozzona? No, con garbo e delicatezza ho detto che gli amici che non conosco, disse che, cioè, alcuni, Gennaro Migliore lo conosco, ma quelli di Cell che sono passati da Cell al gruppo misto o qualcuno poltrone, si avvicina poltrone, al PD, poltrone, sono rimasti nell'area del centro-sinistra. Poltrone, ipocrita, è solo questione di poltrone e di convenienza politica, non c'è nulla di ideale. E qual nulla. È la convenienza? Qual è la poltrona? Passare con Renzi adesso non è conveniente. Passare con Renzi non porta nulla. Non al momento non ci sono poltrone immediate, arriveranno. Dicendo delle cose molto gravi e molto inesatte. No, ma che gravi? Perché gravi? Perché? Ma non c'è gravi. Nessuna cosa grave. Simone da Milano, veloce. Sì, pronto? Io lo trovo insopportabile la cacciara che c'è dietro Parenzo, la trovo insopportabile, la trovo una cosa veramente offensiva nei confronti di chi lavora. Camionisti, tassisti, gente che lavora in questo momento, quello fa i cazzi suoi, gente dietro, cocktail, torte, tartine, qualsiasi cosa, vergogna! Simone da mia, una cosa vergognosa, sento cacciara, bambini, festa, panorama. David, sì. Mi dispiacerebbe andare a fare in culo, però nel frattempo benissimo. Potete per cortesia mettere un po' più in fresco questo vino bianco, per cortesia, grazie. Che schifo, pronto. Mi fai veramente schifo. Simone, pronto. Dimmi. Simone. Torniamo. Simone. Pronto, buonasera. Vai. Cusciani, buonasera Parenzo. Niente, io mi permettevo di intervenire alla vostra trasmissione perché mi sembrano le parole di Toscani, che sembrano abbastanza un insulto nei confronti del crocifisso e di chi crede devo dire che questa sera Crepeci è andato giù in maniera particolarmente pesante sul crocifisso, eh. Se permette, mi meraviglio dal momento che Parenzo ha preso strenua difesa, se non sbaglio, circa una ventina di giorni fa contro un ascoltatore di Radio Padania che telefonava avendo, diciamo, tra virgolette, insultato, non so se Allah o il mondo islamico, mi meraviglio, no, come non prenda posizione contro le affermazioni di Toscani, ecco, giusto per correttezza, visto che non è giusto bestemmiare, diciamo, contro il musulmano secondo Parenzo, non trovo che sia giusto neanche insultare in quel modo il cristianesimo, perché poi dopo sono queste le situazioni che vanno a generare quei conflitti che poi dopo nessuno vuole avere, diciamo, in un paese. Però se si lascia la possibilità, allora, libertà degli omosessuali, tutto un mischione per quanto riguarda le etnie, eccetera, poi dopo è logico che si vanno ad accentuare gli episodi di razzismo, eccetera. Anche no, non ho capito perché si accentuano gli episodi, certo, di razzismo? Perché bisogna sempre difendere, no, in maniera particolare gli altri, no? E invece diciamo che noi, diciamo, come italiani e come cristiani, non dobbiamo alzare la nostra bandiera. E no, perché scusi, va bene, Simone, riprenderemo in un altro momento. Questo discorso è troppo complicato, troppo complesso. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. È con noi, lo ringrazio, Giancarlo Galan. Buonasera. Buonasera, buonasera a quelli che ci ascoltano. Come sta, innanzitutto? Non bene. È il momento, ovviamente, il momento più brutto della mia vita. Della sua vita in generale, non solo della sua vita politica, ovviamente. No, la vita politica è una parte della vita di ognuno. L'altra è la vita complessiva che conta. I toni sono molto diversi dalle volte in cui lei è stato ospite qui. È successo quello che è successo. Questa non è un'aula giudiziaria. Non mettiamo a confronto tesi. Non è un interrogatorio come le hanno fatto questa mattina. Ho letto sul Fatto Quotidiano, che è ovviamente un giornale dove lei ha risposto puntualmente a questa sorta di interrogatorio che le hanno fatto sui soldi ricevuti. Lei che nega tutto. Partiamo però da un punto fondamentale. Innanzitutto, Parenzo, saluta Galan. Io saluto Galan e fammi dire subito una cosa prima di partire poi con l'intervista serrata, su una cosa sicuramente Galan ha ragione, sicuramente, sul fatto che ha chiesto ai magistrati di essere interrogato ormai da più di un anno e mezzo, se non ricordo male, e i magistrati non lo hanno voluto ascoltare. Ecco, questo è l'aspetto più vergognoso della vicenda. Poi dopo io mi auguro che lui riesca a dimostrare. Ecco, però su questo punto, Galan, lei si è fatto, si è chiesto per... però le accuse sono gravissime. Sì, vabbè, questo lo sappiamo. Questo. Però Galan, su questo punto qua, su cui lei insiste molto, cioè il fatto di non essere stato interrogato, qualcuno potrebbe dire, io faccio sempre l'avvocato del diavolo, insomma, in moltissime inchieste accade che una persona non viene interrogata perché si finisce un percorso e poi ne inizia un altro, no? Sì, però io credo che nel 2014 non si possa mandare in carcere qualcuno senza neppure averlo interrogato. Io francamente questo proprio non riesco a capirlo, non mi sembra neanche giusto. Senta, lei io ringrazio Parenzo perché ha ricordato che è un anno e mezzo che lo chiedo. No, ma noi qui siamo stati, io credo, super corretti nei suoi confronti. Perché, sì, lo so e vi ringrazio. Perché per noi lei è semplicemente un indagato in questo momento, qui è stato chiesto l'arresto, lei ribatte punto per punto dicendo che non ha preso un euro di quello che si legge. Ecco, per esempio questa cosa qui del milione di euro. Cioè, nei primi giorni lei era il mostro, quello che ha preso un milione di euro l'anno per non so quanti anni. Allora, che cosa ci dice sui soldi? Cioè, la domanda è molto semplice, Galan. Lei ha mai preso un euro di mazzette, un euro di tangenti, sì o no? Io lo dico a tutti i miei concittadini, elettori, quelli che ci ascoltano. Io non ho mai preso nella mia vita né una lira né un euro per fare o non fare qualcosa. Mai. Neppure una. L'accusa è che lei però abbia ottenuto dei finanziamenti, dei soldi per oliare la macchina del MOSE, cioè lei era considerata una persona importante che poteva influire sull'andamento dei lavori come altre persone e dunque lei per la posizione che aveva eccetera è stata aiutata in più, su più fronti, adesso non andiamo nel dettaglio. Cruciale. ne dico soltanto una cosa generale, sì. Il MOSE è un'opera statale, è lo Stato che decide quanti soldi, quando darli, come vanno. Il ruolo, e l'ha detto anche Cacciari, della regione, il ruolo minore degli enti, della regione, degli enti locali, è assolutamente irrilevante. Ma quando mai si corrompe uno che non conta nulla? Poi, beh, lei contava qualcosa, no, all'epoca contava, però. Ma contavo come presidente della regione, nazionalmente. Ce n'erano tanti altri che contavano di più sulla un presidente morte. Della regione come un sindaco, lei ha ricordato il caso di Orsoni, può tranquillamente influire, mettere ostacoli, eccetera, eccetera. Per cui non sarebbe uno scandalo. Poi lasciamo perdere se lei l'ha fatto o no. Però il fatto che qualcuno potesse avere in mente di pagare il presidente della regione non è di per sé una cosa assurda, o no? È una cosa assurda soprattutto in quelle circostanze. Io vorrei davvero invitare tutti a leggere la deposizione dell'ingegner Mazzacurati, sì. Che tra l'altro in tanti altri punti dichiara di aver avuto interesse personale, di essersi portato a casa dei soldi, lui e il suo vice tale ingegner Neri. Ecco, sì. Io invito davvero a leggere quella disposizione, resa fra tentennamenti, fra incertezze persino sulla cifra, e poi guardiamo. Cioè lo stipendio di 1 milione di euro è una cosa che non esiste. Ma dai, ma non esiste, è una favola assoluta, la quale è anche difficile replicare, anche perché me l'avrebbero dato quando per davvero non contavo più nulla, perché nel finito di fare il presidente della regione, mi dica lei. Senta, lei fra pochi giorni potrebbe andare in carcere, la vede come una certezza oppure ha qualche speranza che l'aula della Camera respinga? Io ho sempre la speranza che gli uomini e le donne che compongono la Giunta per le autorizzazioni prima e la Camera dei Deputati abbiano voglia di leggere qualche... Perché c'è, secondo lei c'è il fumus? C'è il fumus persecutionis? Ma secondo me è evidente, e soprattutto non c'è il motivo per mandarmi in carcere. Cioè, qual è il motivo? Quello di vedermi, di interrogarmi in manette? Poi magari strappare una confessione, farle raccontare delle cose. Però questa non è civiltà giuridica, usare il carcere per strappare. Cioè lei non può inquinare le prove? Secondo loro evidentemente può inquinare le prove, che scappare non credo che abbia intenzione di scappare. Ma come posso inquinare le prove? La cosa va avanti da un anno e mezzo. Cioè lei dice il carcere è ingiusto perché non esistono le ragioni per mandarmi in galera secondo il codice. Il carcere deve essere l'estrema ratio, io ho un elenco di 8 punti, che sono un po' lunghi da dire così, alcuni molto tecnici, di 8 punti, per cui francamente ci sono mille altre misure che possono garantire le esigenze. Però mi sembra l'atteggiamento anche che ha avuto nel Partito Democratico nei confronti di qualche altro suo deputato, non mi sembra che... È vero, però... Intanto le accuse erano diverse. Sì, secondo, no, certo. Ma lei ha paura del carcere? Non si può parlare il clima, perché se il clima, forse cosa facciamo? Decapitiamo la gente come ai tempi di Robespierre, perché il clima è quello. Allora dica qualcosa a Renzi, che è il capo del Partito Democratico. Presidente del Consiglio, leggi le carte, dai qualche indicazione ai tuoi, perché non si può andare in galera, ovviamente secondo lei, per quando non ci sono i presupposti. Io lo dico a tutti, da Renzi a tutti quelli che hanno una responsabilità, a tutti quelli che hanno voglia di sapere qualcosa di più, a tutti quelli per cui vale il principio dell'innocenza fino all'emissione della sentenza definitiva, per tutti quelli che sanno cos'è il garantismo, per tutti quelli. Però Galan, altre persone non nella sua condizione sono in galera, cioè altre persone che non sono deputati sono in carcere, attenzione, cioè lei sarebbe stata arrestata evidentemente il primo giorno, ma ha paura di andare in galera lei? Ma certo che come potrei dire il contrario? Che ho paura. Dell'Utri fino a qualche giorno prima di essere arrestato, da noi diceva di non avere nessuna paura del carcere, anzi andava lì per leggere tutto. Lei conosce bene Dell'Utri? È un uomo più forte di me, io no. Lei ha terrore del carcere? Ma non del carcere in se stesso, io ho terrore del processo mediatico che c'è già stato e di un processo che si fa. Ecco, ma di andare proprio, di varcare la soglia del carcere, di dormire in una cella, ha paura di questo aspetto qui? Non lo so, non è tanto questo, è il mostro che si è costruito in questi giorni che mi fa paura. E il conduttore? Non c'è dubbio che è il conduttore, questa è la Zanzara, Radio 24, 800 24 00 24, con David Parenzo in collegamento da Siena e con Giancarlo Galan, deputato di Forza Italia, in collegamento da Padova, se non sbaglio, insomma da casa. Lugano la famosa casa. La famosa casa, la famosa casa che è una parte del... Voglio chiedere a Galan questo subito. Non le sembra di essere stato però comunque un po' abbandonato anche dal suo stesso partito? Cioè, non da volta... tutti, non da tutti, però il partito non ha fatto quadrato. Non lotta più come una volta il partito per... Mi pare un po' così. No, si o sente no, un si po' sente solo. Abbandonato? I partiti, il mio partito è anche fatto di uomini, ci sono uomini di spessore e uomini che hanno un po' meno spessore, donne di grande coraggio e donne che si adattano alle convenienze, ci sono garantisti e ci sono garantisti solo quando questo gli conviene. Si sarebbe aspettato di più Galan? No, perché non ho... Berlusconi l'ha chiamata? Sì, certo. Non ho una grande fiducia nel genere umano. Per avere fiducia in qualcuno, per essere delusi, bisogna avere fiducia. Io non avevo... Ma Berlusconi le ha assicurato che il voto di Forza Italia, per esempio, alla Camera sarà compatto nel respingere la richiesta di arresto? Ma io vorrei che non fosse un voto politico. Io prima mi avete chiesto se ho paura del carcere. Io ho paura di andarci ingiustamente. Non ho paura di stare in una cella, di passare il giorno. Troverò qualcosa di interessante da fare. Andrò alla biblioteca a metterla a posto. Farò qualcosa, giocherò a carte. Ha pensato a quello che si porterà in carcere? Sì, ci ho pensato. Andarci. Non ho ancora deciso, ma ci ho pensato. Sono incerto fra i grandi classici e invece cose più leggere. Penso che opterò per qualche libro un po' più leggero. Ma non ho paura di quello. Io, se devo essere sincero, e l'intervallo pubblicitario mi ha consigliato di esserlo fino in fondo. Non ho paura del carcere, di quello che ci troverò, perché ci troverò uomini anche là, insomma. Beh, ho paura soltanto, e l'unico mio pensiero costante va solo in questi giorni a mia figlia che ha 7 anni e che comincia a capire che qualcosa non va. Ecco, questo, cioè, lei non, è... non ha detto a sua figlia qualcosa sul fatto che lei potrebbe andare non ancora, non ho avuto la... Beh, forza, mia figlia ha 9 anni, io non saprei come dirglielo, francamente. 7 anni è un po' difficile, perché si accorge e vede il papà che è sempre al telefono con un avvocato che lo deve aiutare, come lei dice, e la mamma che legge un sacco di carte, quindi comincia a intuire, ma a 7 anni uno non può sapere, non può capire. Ma ha pensato a cose brutte anche questi giorni, no? Cose brutte non ha pensato? No. Mia figlia, non posso pensare a cose brutte quando c'è una bambina che ha 7 anni. Se avesse di fronte in questo momento la sua segretaria, che è una parte, la sua ex segretaria, che è una parte consistente, fondamentale delle accuse che le vengono rivolte, oltre a quelle di Baita, un imprenditore che dice altre cose, Mazzacurati stesso, eccetera. Però se avesse di fronte in questo momento la sua segretaria, che cosa accadrebbe? Cosa succederebbe? Non, francamente non lo so. Spero che... Spererei di avere la forza di resistere agli istinti, che non sono dei migliori. Cioè, forse per il suo istinto la picchierebbe? Non lo so, no. Le darebbe uno schiaffo? Non le urlerebbe so. Vorrei, in faccia? Vorrei inventare qualcosa, avere l'originalità di fare qualcosa di più duro, ma di più formalmente corretto. Una... Senta, ma è vera questa storia che lei... Non neanche con un fiore, dico, la toccherei. Non la toccherebbe. Senta, ma è vera questa storia che lei a un certo punto l'aveva vista con un cappotto da 16.000 euro? Mi sono sbagliato, ne costava 18.000. 18.000? Corretto, sì. Ma che lei fosse amante del lusso e che fosse vestita, addobbata con gli addobbi più costosi, lussosi, insomma, non c'è bisogno che lo dica io. E i soldi da dove li prendeva, secondo lei? Non lo so. Adesso lo so. Cioè, come no? Adesso lo so. Allora non lo sapevo. Oggi? Allora pensavo che fossero o regali o che avesse un marito ricco. Io sono sempre così ben disposto. Adesso l'ho capito dove li prendeva. Dove li prendeva? Cioè, i soldi che i magistrati dicono che ha preso lei invece sarebbero quelli della segretaria? Qualcuno li ha presi. Io non sono stato. Quindi qualcun altro li ha messi da qualche parte. Mazzacurati ha ammesso che qualcosa si è tenuto e altri non l'hanno fatto. Però Galan, Parenzo, c'è un punto fondamentale, perché poi le accuse sono molto precise. Lei protesta con la Guardia di Finanza perché dice che non ha guardato bene nei suoi conti, che in realtà non ha calcolato bene gli stipendi, un discorso anche molto complesso. Però nell'intervista che ho letto al Fatto Quotidiano, lei dice una cosa interessante. Dice: io in realtà sono uno che non controlla nulla, non so nemmeno quanti conti ho. Ma davvero lei non sapeva di avere, per esempio, almeno secondo quello che dicono i magistrati, che si legge 18 conti correnti? Che bisogno c'è di avere 18? già li sa cosa c'è fra i conti correnti che hanno conteggiato, quelli chiusi da 20 anni, e poi c'è il Telepass, c'è le Poste Italiane, cioè quanti conti correnti hanno? Ridicole. E io ho un conto corrente, ma faccio presto, ne ho uno al Monte dei Paschi perché non me lo vogliono far chiudere, perché così per simbolo era la vecchia banca Anton Veneta, qui del Veneto, quindi c'ha 600 euro sopra. Uno sul nell'En Veneto Banca, che è la mia banca, e uno sul, e dopo, come tutti i deputati, Banco di Napoli, Banco di Napoli. Numero uno Roma, quante, quattro ce l'aveva, quattro conti. Quindi, aveva tre conti. Tre, dopo dopo avrò forse una relazione, anzi ce l'ho senz'altro con la Popolare di Vicenza, che mi ha concesso un mutuo, ecco. Siamo a quattro. Sì, basta, no, lo ha concesso a mia moglie oltretutto, non a me, quindi siamo a tre. Dopo ci sono le Poste, il Telepass. Ma scusi un attimo, però è spuntata fuori pure un'altra cosa da 50, dicono 50 milioni di euro all'estero, investimenti da 50 milioni di euro, anche qui può spiegare? Magari, io 50 milioni di euro non so neanche come siano fatti. Cioè lei è mai stato ricco, sì o no? Non sono sempre stato benestante, questo sì. Ma non ricco, ho guadagnato ma non molto. Ricco. No, i ricchi sono cioè sono con la politica si è arricchito, perché una delle cose che ci hanno detto alcune persone, sicuramente i suoi avversari politici, è uno di quelli che con la politica si è arricchito. Mi sono così tanto arricchito, Cruciani, che quando l'ultimo anno in cui ho lavorato ho dichiarato 420 milioni di reddito. Quando mi sono stato di lire, sì, certo, sì, ma se no altro che ricco. Di lire, 400 quando, in un anno. Quando sono stato liquidato dopo sei anni di dipendenza, di lavoro, mi hanno dato 700 milioni di lire. Quando sono stato liquidato dopo 15 anni di presidenza della Regione Veneto, sono stato liquidato con 60.000 euro. Per cui lei dice con la politica prima e se sarei stato più ricco continuando il lavoro che facevo. Cioè con la politica con la politica ho perso dei soldi. Rispetto a prima. Non si può dire che li ho persi perché no, rispetto al lavoro che facevo prima, bene, cioè... ma rispetto a quello che facevo prima certamente è molto di meno. Parenzo, che vuoi dire? No, ma voglio capire questo, perché effettivamente lui è stato dirigente di Publicitalia e quindi dice dimostrerò che quello vedremo in tribunale, ovviamente, sì. Però la questione è questa, cioè o questi si sono inventati tutto, dopodiché presumerebbe un complotto di persone che hanno confessato, guardia di finanza, magistrati, cioè beh, lui dice che i soldi, molti dei soldi li ha presi la segretaria, per esempio. Ci sarebbe poi anche questo prestanome che avrebbe, come dire, intestati alcuni conti. Cioè, sì, però non entriamo nel dettaglio, la cosa che voglio sapere quello che capisci, la parte più difficile da provare per lui, per Parenzo, non è la parte più difficile, è la parte più facile, perché io ho dimostrato tutto documentalmente. E poi vedremo, quindi vedremo. Ma la cosa incredibile, Galani, che io dico, la cosa incredibile che io dico e che ho ripetuto più volte in varie sedi qui alla Zanzara, una volta anche alla Gabbia, se i giudici hanno delle prove incontrovertibili che il signor Galan si è arricchito, prove con i conti correnti, con i soldi, per delle mazzette, allora perché non chiedono il giudizio immediato? Ci sono i conti correnti, ci sono i passaggi, ci sono le cose, ci sono le confessioni, ci sono le persone che dicono andassero al giudizio immediato, così almeno la chiudiamo la fermo un attimo, la fermo. Non c'è nulla di tutto questo. Ci sono tre persone, Claudia Minutillo, mia ex segretaria, Baita, un tuo imprenditore, e Massacurati che mi accusano. Tre. Nessuno dei tre dice di avermi mai consegnato una lira. C'è un'indagine, ci sono delle carte che francamente se io fossi stato un magistrato, con i quali non ce l'ho proprio per nessun motivo, ci sono delle ricerche della Guardia di Finanza, che ci sono delle cose che se io le avessi avuto in mano mi sarei fatto l'immagine. Ma che errori ha commesso lei? Che errori ha commesso? Per esempio nella ricostruzione del mio patrimonio intanto si parte dall'anno 2000 al 2010, secondo non si tiene conto di tutte le voci che non sono. Ma perché i finanziari non sono stati bravi? Perché ce l'hanno con lei, questo l'avrei spiegato volentieri se mi avessero interrogato i magistrati, questo l'ho spiegato ai deputati. La politica per lei è finita? Sì. Cioè lei non farà mai più politica? No, troppe delusioni. Ma perché non si dimette adesso dalla Camera allora? Cioè, No, non ci ho ancora pensato a che cosa fare. Non è mica una questione di essere deputato o meno, di questa non è una cosa assolutamente irrilevante. Però in questo momento è una protezione dal carcere, per esempio. Ma quanto dura, dai, dura 10 giorni, lo vedrete. Non è certamente lì il motivo. Io voglio essere giudicato, io non voglio fuggire dal processo, Io lo voglio. Voglio il processo, io voglio andare e mostrare le mie prove documentali. Ecco, il presidente Berlusconi le è vicino? Voglio, no, presidente... E dopo voglio anche guardare in faccia, per esempio, la mia segretaria. Ecco, vorrei guardarla negli occhi. Questo voglio. Non ce l'ho affatto con i magistrati di fronte a quelle carte. Io non mi sarei arrestato, non avrei chiesto l'arresto, però, perché non c'è nessun motivo. Mi sarei fatto un'immagine. Come faceva a non sapere, per esempio, che il Consorzio Nuova Venezia, Parenzo, era un ente, era un'associazione, quello che è, insomma, che un'associazione di imprese. Esatto, che distribuiva, però diciamo la verità, distribuiva soldi a destra e a manca, favori a tutta la città, era diventato Ma se fosse stato così noto, ma perché non avrebbero agito prima? Appunto perché pagavano tutti. Perché pagavano tutti. Tutti, ci sarà stato pure tutti, qualcuno. Opposizione, giornalisti, pagato, tutti. No. Come no? Dai, non fate anche voi. Guarda che è pieno di persone che sono state sovvenzionate, aiutate. Io non sono tra quelle. No, ma lei non ha preso un euro dal consorzio. Io non me ne sono accorto. Lei in nessun modo ha preso un euro dal consorzio Nuova Venezia, in nessun tipo con... No. No, ma quando uno dice di no, o porti la prova contraria. Quante volte lo devo dire? Non sto percependo neanche lo stipendio da deputato, se è per mettere tranquillo qualche giustizialista. Perché? Non lo prendo in questo momento, perché non frequento la Camera. Beh, che vuol dire che non prende lo stipendio? Lo prende sempre, l'indennità la prende sempre. Non credo, non è arrivato nulla. No, non lo prendo, anche perché i conti correnti e tutto è bloccato. Ma comunque questo poco importa, che io voglio andare in un processo... E discutere apertamente, non il processo mediatico, però. Perché non il processo giustizialista per qualcuno che io voglio avere di fronte i miei accusatori e chiedere a Mazzacurati dove sono i 5 milioni che mi avrebbe dato e quando me li ha dati. Sgarbi, che notoriamente non è una persona, come dire, vicina a lei, dice: io con Galan non sono garantista come con altri, è un ladro, un bandito, uno che si è arricchito con la politica, ce l'ha detto anche a noi più volte qui. Pazienza, cosa vuole? Io non gliene frega adesso niente, in questo governo che mi metta anche a polemizzare con Sgarbi. No. Sgarbi fa dell'insulto la sua professione, pazienza. Senta, ha fiducia che in Renzi, presidente del Consiglio per il Paese? Le faccio una domanda così che non c'entra nulla con la politica. No, non voglio più parlare di politica, io chiedo scusa. Non ne voglio Lei ha chiuso con la politica? Ho chiuso, non mi interessa. Ma e lei però è comunque è un parlamentare, cioè quindi la cosa che devo dire, i soldi della ristrutturazione posso non occuparmi della politica giorno, posso dire che non mi occuperò più, almeno questo mi viene concesso. Ecco, non mi occuperò più di politica, non lo so come lo devo dire. Che si è rotto i coglioni, certo. No, mi ha deluso. Si può vivere in maniera più sobria, secondo lei, oppure si rimprovera di aver esagerato su qualche fronte? Non ho affatto esagerato, ho vissuto secondo quello che il mio stipendio, il mio coso mi consentivano di vivere. E in fondo, piantiamola con questo tema, perché per esempio è fatto così bene il report della Guardia di Finanza che mi si attribuiscono 3 marche. Non è vero, intanto sono 2, perché una, io sono almeno 40 anni che non monto su una barca a vela, primo. Sì. Secondo, le altre barche hanno una 23 anni e una 12. Qual è il suo difetto principale in questa vicenda? Per piacere, piantiamola. Oh, è vero, oltre a una casa in cui ho messo tutto quello che ho guadagnato, ho 2 appartamenti, e non a Saint-Tropez o a Cortina d'Ampezzo. sono poi in Croazia, la due appartamenti, della... Baita... è possibile, si può o è un crimine secondo lei? Non è un crimine a patto che ovviamente i soldi siano sono i propri, questo mi pare evidente. Ma sono proprio miei perché mi sono guadagnati tanti. La ristrutturazione della casa, molti mi chiedono della ristrutturazione della casa, ma lei ha già detto su questo, l'accusano anche di avere preso, diciamo, dal consorzio Nuova Venezia, anche da alcuni imprenditori, i soldi per la ristrutturazione della casa. Ma come si fa a rispondere a delle balle così? Io l'ho dimostrato documentalmente. Baita, ma l'ha detto, sbaglia non solo l'azienda che ha eseguito i lavori, ma sbaglia perfino le date. Siccome ha evidentemente qualcosa da giustificare negli anni 2010-2011, dice che la banchessa, sapete cos'è, no? Figurati, dal Parenzo, poi lo sa benissimo, è stata ristrutturata, che tutto è stato ristrutturato in due fasi. Una nel 2006, quando ci sono andato ad abitare, e la banchessa nel 2010-2011. È una palla colossale, tant'è vero che quando ho compiuto i 50 anni, alcuni miei amici sono andati a dormire nella banchessa, non solo, ma ancora più eclatante, quando io mi sono sposato, Berlusconi ha dormito nella banchessa. Dove ha dormito? Nei calcinacci? Quindi era già tutto finito, sono balle, devono giustificare qualcosa che hanno si fatto aspetta sparire. Si aspetta qualcosa da Berlusconi nei prossimi mesi? Sai cos'è la cosa? Berlusconi mi ha già dato il suo appoggio di uomo, io mi aspetto questo un po' da tutti. Berlusconi cosa devo chiedere di più? Quanto si aspetta di... mi pare che con abbia la certezza che andrà in carcere, quanto si aspetta di stare? Ma non lo so, non ci voglio pensare. Ci voglio stare ingiustamente. Lo so, però quello sarà, lei lo sa benissimo, ce l'ha detto anche prima, quello sarà, perché la Camera darà l'autorizzazione e... Troverò qualcosa da fare. L'abbraccio. Ma il fatto che ci sia Nordio a fare queste... Non me ne frega niente, perché né in bene né in male, non voglio neppure, non mi interessa il nome dei magistrati, non ho contro di loro, nulla, né a favore. No, perché si diceva che Nordio, all'epoca c'era la polemica, toghe rosse, toghe cosiddette non rosse, non gliene frega niente, ha detto. Non l'ho mai fatta questa polemica, non l'ho mai neppure iniziata e non voglio iniziarla adesso, soprattutto su una persona di cui io nella mia vita ho avuto stima, che è Nordio. La ringrazio, a presto, buona fortuna. Grazie. A presto. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene. Le zanzare, fanno male. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Già. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? ancora Bari. Ancora Bari, se c'è. Porta se il tuo sangue rosso blu. Va bene. Allora, mi prendete dopo. Intanto Giovanni da Milano, Giovanni. Cruciani, a me Garan mi fa pena, poverino, mi fa pena quest'uomo dimesso, sommesso, così triste che ha queste paure. Cazzo, invece io me lo ricordo alla televisione col suo quel bel faccione, pacerotto. Ho capito, bello. Quando uno viene travolto, da un'inchiesta giudiziaria. Travolto da che cosa? Questo non si accorgeva di un cazzo, questo non sapeva un cazzo, solo la sua segretaria andava in giro con i cappotti da 18.000 euro. Che io neanche so che esistevano i cappotti da doccio 18.000 euro. Io un cappotto 18.000 euro, francamente, non ho idea di che cosa possa essere un cappotto da 18.000 euro. Mai l'avrei riconosciuto, lui sì, però. Sta cazzo di casa, milioni. E poi voglio dire una cosa: l'altra sera, quando ho dettagliato i suoi redditi, ha detto che piglia 5.000 euro di la chiamano loro? Non lo stipendio, un altro sì, nome, direi di indennità. E poi in tutto fanno 13.000, in tutto fanno 13-18.000. Sì, allora? E dopo, però, conta anche, ma la Guardia di Finanza non ha contato il rimborso. Cazzo, ma il rimborso non sono soldi tuoi, sono soldi che tu dovresti aver fatto per fare il lavoro del cazzo. No, la parte non imponibile, perché non hanno calcolato, secondo lui, la parte non imponibile. Comunque, insomma, adesso non è importante. No, secondo lui, la Guardia di Finanza ha fatto male i calcoli. Perché secondo me, invece, questo grassissimo pacerotto brutto schifoso di Galan, no, dovrei accorgersene, perché quando uno dirige un'azienda, la regione ha una grossa azienda, cazzo, vede cosa succede. Mi nessuno sa niente, nessuno vede niente, e adesso hanno votato ancora l'immunità per i nuovi senatori. Giovanni, innanzitutto non hanno votato nessuna immunità, volevano metterla, poi forse non la metteranno, eccetera. Il fatto che non si sia accorto, il fatto che non si sia accorto del giro di soldi che c'erano, certamente è una delle sue responsabilità. D'altra parte lo ammette anche nell'intervista al Fatto, che può avere delle colpe, diciamo, dal punto di vista della vigilanza. Però questi di questo consorzio, con i soldi nostri, con i soldi pubblici per le opere, li distribuivano a pioggia a tutti, proprio perché nessuno poi parlasse. Questo è il punto fondamentale. Donna Assunta Almirante è con noi. Donna Assunta, come sta? Io benissimo, lei come sta? Non c'è male. Senta una cosa, ma è vero che le ha telefonato Fini per protestare di non essere stato invitato ai 100 anni, a una manifestazione per i 100 anni della nascita di suo marito? No, non è vero, è una bugia. È una bugia. Inventati, io non lo sento da parecchio tempo. Ma figuriamoci, se uno si inventa tutto. Lei adesso sta negando magari una cosa che è avvenuta. No, ma è vero. Che ragione avrei di dire il contrario, scusi? E che ne so, Parenzo, saluta... Io non dico bugie, perché sennò mi crescono le orecchie e il naso lungo, come Pinocchio. Guarda, saluto Donna Assunta, dopodiché non ho partecipato a quel convegno per ovvie ragioni, diciamo, ma... fatto bene ad andare Ma non mi interessa. È non stato un personaggio che non mi interessa, perché non ha mai fatto una biura rispetto a quando scriveva sulla rivista storia, La difesa della razza. Però vabbè. Ma non mi faccia ridere, guardi, è proprio invecchiato lei, È no, molto, è invecchiato anche lei male, è invecchiato. Proprio un catananno. Scusi, ma il suo è un catananno lei. Come si dice, Donna Assunta, scusi? Catananno, che vuol dire vecchio. In Calabria si chiama, quando uno è rimbambito lo chiamano catananno. E questo signore rimbambito, poverello, ma... che pena che mi fa. Dice sempre le stesse cose, poi ripete sempre le stesse cose. Sì, è proprio vecchio. No, donna... vecchio niente. Ma lei ha avuto la meningite, forse ha avuto questa meningite e non se ne è accorto. Ma come si permette? Ha avuto la meningite. Ma io ricordo semplicemente ogni volta che posso che suo marito, pace all'anima sua, scrisse con Telesi. Ma faccia la cortesia, Almirante ha fatto 100 anni e ancora parla di una cosa quando ne aveva 15 o 16 anni. Ma dove si è fermato lei? Al Colosseo? Ma che 15 o 16 anni? Ma che vecchio, rincoglionito che lei. Ma non ha mai rinnegato di aver scritto sulla difesa della razza. Vecchio bacucco proprio niente, e neanche vecchio. Scusi, io sono Donna Assunta, ma vecchio bacucco, poverino, quanto pena mi fa. Scusi, ma ha fermato il tempo. Vabbè, sei antifascista, abbiamo capito, sei antifascista, va bene. Ma ancora parlate di fascismo, ma come? È finita l'Italia, parlate ancora di fascismo. Scusi un attimo, Donna Assunta, ma che è successo lì alla commemorazione dei 100 anni della nascita di suo marito? Ha incontrato qualche persona interessante? Le hanno regalato delle cose? No, non mi regalano niente a me, guarda. Ma sì, ma hanno detto che le hanno regalato dei piccoli busti. Ah no, i busti me li ha portati quel signore che gentilmente, pagando prima, adesso no, le ha portato delle teste che è la testa di mio marito, mi ha fatto un omaggio di 6 di queste teste per regalarle a qualche amico intimo. Cioè, no, ma il hanno busto regalato... è quello che mi hanno rubato e che io l'ho rifatto nuovo, ma di marmo. Ha rifatto il busto di nuovo? Che vuoi? Ma anche i busti si prendono adesso. Scusi un attimo, questo lo sappiamo, c'è la vecchia storia del busto. Non è che diventa una questione nazionale sto busto, mi dispiace moltissimo. No, ma mica solo a mio marito, hanno rubato tutto al cimitero, No, quello è brutto, quando vanno a rubare al cimitero è brutto. Hanno rubato persino i vasi, poi i portafiori di rame, si sono presi anche quelli. Vabbè, quelli saranno i Rom. Avete discusso un po' delle leggi razziali o no a questo convegno? Basta questa cosa, non mi senti. Basta. È veramente uno scocciatore. Non ti attaccarmi, guarda. Ha avuto 100 anni, Almirante, ha fatto avantiere, sia buono, non faccia il cretino. Donna Assunta, ma questi busti che le hanno regalato, cioè questi test no, che le hanno regalato? La testa di che so? Teste di gesso. Ma di chi erano? Di suo marito? Sì, di mio marito. Beh, siccome hanno rubato, me l'ha voluto fare un omaggio per far regalarla a qualche amico e mi ha regalato queste 6 teste da farne un omaggio a qualche amico. Parezzo, perché è interessante sta cosa. Tu lo vorresti a casa una testa di almirante, no, sarebbe bellissimo. Non è assunta... degno di averla questo qui, ma è troppo scemo. Donna Assunta, lo sa che io faccio collezione di busti di gesso? È vero? Di tutto. Non lo sì, sapevo. Sì, grande collezione, sono un grande collezionista di busti e costano un sacco di soldi. No, non un busto, questo è solo una testa. La testa, vabbè, uguale. Ma chi è che si mette in casa la testa di almirante? Adesso con tutto rispetto. Beh, la moglie, per esempio. Cioè secondo lei io c'ho un quadro meraviglioso che mi è stato regalato tantissimi anni fa. Vabbè, lei ce l'ha, vabbè, la moglie. C'ho dei quadri favolosi con la sua faccia bellissima, non certamente come la sua, eh. No, ma perché mai, ma per carità, no. Sicuramente era più bello di te. Gli occhi meravigliosi di almirante, lei se li sogna, eh? Sicuramente era più bello di te, Parezzo. Sicuramente era più bello di te. Io un attimo, sicuramente non ho mai fatto parte della Repubblica Sociale Italiana. Ma lei è proprio uno sciocco, ma lei non fa parte di nessuna parte, perché non la vedono, non la vedono, non la concepiscono che lei ci sia. Beh, la gente non pensa che lei ci sia. Lei non è mai nato. Mai, mai. Un attimo... esiste sulla faccia della terra. Un attimo solo che abbiamo la borsa, poi ci ricolleghiamo con la mitologica donna Assunta Almirante, perché voglio chiedere ancora qualcosa su Fini. Io non voglio pronunciare la parola Fini perché è talmente ormai una roba inesistente, però ogni tanto la cronaca ci riporta a Fini. Poi gli voglio chiedere una cosa di Salvini, gli voglio chiedere un po' di cose sulla Mussolini, eccetera eccetera. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Ronda, ronda, ronda. Qua della zanzara, incominciate a essere rincoglioniti, eh. Ma dico, ma possibile che siete così vecchi anche di pensiero? In Italia, caro Parenzo, si discute di cose inutili, totalmente inutili. Il fascismo non invecchia mai, ricordati. Sì, e soprattutto il tuo telefono non invecchia mai, non si sente mai una mazza. L'antifascismo non invecchia, oh partigiano, portami via. Che bella, fastidio, ciao, guarda. Bella, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, la la la la. Canti con noi, donna Assunta. Vedi che non sa pure la canzone. Bene, partigiano. Portalo via, Parenzo. Dove lo mandiamo questo signore che è rimasto fermo? A Ventotene, mandiamolo a Ventotene. Mandiamola a Ventotene. Com'era della tradizione, Eli. Mandiamola al confine a Ventotene, dai, su, mandiamola. Ma non la vogliono, non la vogliono. Oh partigiano, portalo via. Portalo via. Oh Parenzo, bella. Ciao, ciao, ciao, la la lena, la mamma mia, la la la la la la la la la. Beh, no, donna Assunta, morto per la libertà, quella per cui il signor Abilante non lottava all'inizio. Ma smettila, falla finire. Beh, poverino. Ma non lo potete portare in un manicomio e farlo curare? Non voglio insistere. In un manicomio e farlo curare. Ma in quel momento storico c'era chi lottava per la libertà. Non lo vogliono, non lo vogliono nemmeno lì. Appena arriva lo vedono e dice no, mandatelo via. E pensa che ha pure due famiglie, eh? Ha pure due famiglie. Ah, accidenti. È allargato lui, eh? Sì, ha una famiglia, famiglia allargata. Alla famiglia allargata. Beh, vabbè, questo che gli frega. È moderno, è moderno. Quindi non è vecchio, ho sbagliato. Scusi, donna Assunta, le pare possibile che il Partito Popolare Europeo non voglia, sembra, che non voglia la signora Mussolini perché porta quel cognome lì a Strasburgo? Lo ha detto lei, eh? Ma l'ho letto anche sui giornali, eh? Che dice? Ma poverine, anche quelli, se quello si chiama così che può fare? Scusa, cioè, mica è colpa di Alessandro, è colpa sua? Vabbè, che vuole fare? Ma anche cose ridicole, cose talmente ridicole che proprio superano ogni immaginazione. Senta, ma se Fini si fosse presentato lì alla commemorazione dei 100 anni, che cosa le avrebbe detto lei? Si fosse presentato così da solo? Niente, ma io sono una persona molto educata. È vero. Le avrei detto accomodati. Però la gente non ascolta la lezione, ma siccome non è stato invitato, lui gentilmente non è venuto. Ma comunque lei non l'avrebbe mai invitato, diciamo la verità. Assolutamente. No, ma non è per fargli una cortesia, non l'ho invitato, eh? Perché sarebbe stato insultato, dice. Ma certamente, non è amato più, ecco. Ma ha commesso tanti errori. ha commesso errori fuori dalle regole che non l'hanno avvantaggiato, ecco. Ma ormai che fa? Ormai che fa? Dice che vuole fare di nuovo politica, ha fatto quel video. Ma io penso che giusto per chiacchierare, no? Sì, giusto così. Per ammazzare un po' il tempo. Non ha più tempo, dice. Perché, lei. No, per ammazzare il tempo, perché cioè, non avendo una professione propria, sì. Non è un medico, non è un avvocato, non è un professore. Dice che fa dalla mattina. Solo politica, di conseguenza. Che fa dalla mattina alla sera? Si sente annullato, quindi fare il bambinaio è un po' troppo poco, no? Lei fa il babysitter, dice lei. Babysitter. Sì. Senta, ma un'ultima cosa le chiedo, ma Salvini, leader del centrodestra, si fa questo nome? Lei ce lo vede bene questo leader della Lega come leader del nuovo centrodestra o no? Ma chi? Santini? Ma io Salvini, devo dire che lo trovo simpatico questo della Lega, perché poi oltretutto dice la verità, eh. Poi perché metterci nella condizione? Io pure sono favorevole all'annullamento dell'euro. Alla nostra povera lira. Sì. Che ci dava tanto conforto e ci faceva questo, ci ha distrutto quest'euro. Cioè si stava meglio quando si stava peggio, ma senza lei, dubbio, no? Ma senza dubbio, anche perché vede, hanno fatto delle cose che non sono in regola, perché per esempio le pare che sia giusto che noi mangiamo arance quando noi siamo carichi d'arance che ci possiamo seppellire? Ma le pare che sia giusto che io debba prendere, il mio è un paese, l'Italia è una nazione eminentemente agricola, per quale ragione debbono importare roba che io già c'ho e non sono nella condizione di poterla esportare? Comunque immagina per esempio la Sicilia, la sua... Ma comunque Salvini le piace come possibile leader? Io lo trovo, vedo che dice delle cose giuste. Lo incorona, coronare c'è un po' di differenza, però che dia sia un giovane ragionato che dice la verità è vero. O io sono d'accordo pienamente con lui. O partigiano, portalo via. Scusami un attimo, perché se io proprio lo dico, lo chiedo che non me lo ricordo, perché donna assunta? Questo non capisco. Ma perché donna assunta? Perché così l'hanno chiamata da un po' di tempo. Perché da quando sono assunta, nata, non assunta. Da un po' di tempo, da quando sono nata. Da quando è nata? Da quando è nata? Perché non quando sono nata, da me c'è questo senso del riguardo e del rispetto. Quando sono nata, è nata donna assuntina, il 15 d'agosto, ecco qua. Capito, Parenzo? Perché a lui gli fa male? È che gli dà fastidio, evidentemente. Sentirlo dire poverina, anche questo gli fa male. No, gli dà fastidio pure questo, gli dà fastidio pure questo. Gli dà fastidio che si è, questa cosa del busto ti dà fastidio, non so perché, ti dà fastidio questa cosa del busto. No, che lei... Quale busto? Ma perché lei c'ha un busto? No, perché il busto... Ma gli dà fastidio il busto, porta il busto lei come le donne. Se l'è rubato lui il busto dell'ammirante, Parenzo. No, dovrebbe avere un palazzo per poterselo rubare. Dove lo mettono un busto di un metro e mezzo? Scusi tanto, eh. Guardi, è l'ultima cosa che io, manco se muoio, lo voglio. Proprio è l'ultima cosa che voglio. Esagerà. Ma nessuno pensa di darglielo, eh. No, ma io non rispetto, si deve preoccupare di averlo. Lei si deve preoccupare che nessuno pensa a lei di darglielo. No, ma lei chiaramente è la moglie, la donna che lo ha amato per tutta la vita, quindi questo è anche molto molto bello. Il mio giudizio è semplicemente politico, non sulla persona. Ma io non mi preoccupo se è politico o meno, che io mi preoccupo esclusivamente che lei non è nella qualità di poter avere un busto con Almirante. Ma io manco mi sogno di, ma neanche lo voglio. Ma io non ci penso, capito? Siamo pienamente d'accordo entrambi. Cioè ti fa schifo, Parenzo, ti fa... E lei non lo vuole, ma io non glielo do, perché si deve preoccupare di averlo. Io il busto di uno che ha militato nella Repubblica. Basta. Ma poverino, ma poverino. E che devo fare? Vabbè, l'abbraccio, donna assunta, presto. Perdoniamolo, perché è ignorante dal verbo ignorare. L'abbraccio, a presto, arrivederci. Saluti, cara. Massimo Ancona, Massimo Ancona. Buonasera, chiedo scusa. Volevo fare una domanda a Parenzo. A quanti metri è il balcone dove sta facendo l'aperitivo? È sufficiente per fare un salto? Guarda, no, ce ne liberiamo, una volta per tutte. Devi capire una cosa, sei come Ballotelli, sei nato fortunato, però non ti basta, capito? Devi parlare per rompere i coglioni che è meno fortunato di te. Tutto bene a casa? È veramente da fastidio. Sì, tutto bene. Ottimo. Che mestiere fai, Massimo? Faccio il camionista. Camionista? sì, hai capito. E purtroppo nella vita c'è chi nasce più fortunato e chi nasce meno sfortunato. Chi tocca l'oro, chi tocca la merda diventa oro. A me succede il contrario. Guarda che io mi sono guadagnato tutto quello che ho fatto, giovanotto, capito? Senti, Massimo, tutto quello che hai fatto, ma per, allora, scusa, secondo te adesso stasera torno a casa, sono due giorni che sono partito, trovo uno zingaro che mi ruba dentro la camera dei bambini, se gli do uno schiaffo mi denunciano e tu lo devi difendere. Nessuno ti denuncia. Hai idea tua. E che fai se trovi uno zingaro, se trovi uno zingaro che ruba, che fai? Io? Massimo. Io se riesco l'ammazzo. Cioè, e così poi proprio lo porto, sì, sì, così uno in meno. Se no lo porti dove? Cioè, una volta che no, morto, è morto. Però no, il modo di smaltirlo, perché trasporto la carne, vado negli ammattatoi e lo butto lì dove buttano gli scarti della macellazione. Perché così secco. Sì, ma scusi, esatto, non è una cosa che dovrebbero fare, come dire, fare giustizia in questo modo? Chi fa la giustizia in Italia, Cruciani? Chi la fa? La Frattori si è ammazzato il figlio 6 anni a casa. Questa la chiama giustizia. Quell'altro gli passano i miliardi di euro davanti, non si accorge. Quell'altro gli comprano la casa, non si accorge. Ma ancora parliamo di giustizia. Ma dov'è la giustizia in Italia? Grazie, mi hanno tolto 10 punti per 4 minuti di guida. Scusi, ma questa storia delle piazzole gay ogni tanto mi torna in mente con i camionisti. Ancora questi gay, c'è il pallino, questi gay. Allora che è successo lì? Ma è vero, ci sono, ci vanno. Ci sono. Sì. Ma la molestano o no? La molestano, quando gli dici no, va via, che non mi interessa, non è che tu sai che arrampicano sopra il camion, non è che sono, certo, i ragni. No, appunto. Ciao vedi, Massimo. Quando gli dici ciao, basta. Ciao Massimo. Beh, non ci può essere migliore chiusura con l'avvocato Enrico Tuccillo da Napoli. Buonasera, avvocato. Avvocato, mi sente? Pronto? Buonasera, avvocato, come va? Bene, grazie. Lei come sta? Tutti bene? Sì, tutti bene. Caro Parenzo, un grandissimo avvocato di enorme esperienza internazionale, ha difeso anche personaggi molto controversi, ma ne parleremo un'altra volta. Io voglio capire dall'avvocato Tuccillo, che è uno che segue moltissimo la realtà napoletana, la sua teoria su quello che è accaduto al povero Ciro Esposito, cioè quei fatti di Roma, certo, lo sparo, chi ha ucciso. Che teoria c'è? Che c'è dietro, Tuccillo? Ma guardi, secondo me non è possibile quella lettura semplicistica che è stata fatta, perché ci sono troppe circostanze che messe insieme fanno capire che è stata tutta una strumentalizzazione tesa, sì, a organizzare e soprattutto a colpire due obiettivi finali, e cioè quello di far vedere, dimostrare in diretta al mondo un mezzogiorno di Italia completamente asservito alle autorizzazioni delle organizzazioni criminali, sotto lo sguardo attonito e capace di un governo che assolutamente non riesce a capire neanche quello che accade. Cioè, scusi, l'arma che ha sparato la conosciamo, ma chi è il puparo secondo lei? Guardi, quello che vi posso dire è che recentemente ho letto una cosa che mi ha letteralmente sconcertato. È venuto fuori un libro scritto da due giornalisti che hanno scoperto che sono stati secretati per legge gli archivi dei servizi segreti inglesi, e hanno pubblicato una, che se fosse vero è tremendo, ma hanno pubblicato le direttive che furono date. Sì. E sono rimaste fino al caso Moro, ma evidentemente ci sono tuttora. L'Italia non dovrà mai godere di autonomia politica, economica, culturale. Mi faccia capire, avvocato Tuccillo, secondo lei il tizio De Santis è stato armato da chi? Ah, guardi, io non so esattamente, guardi, è inutile dire, noi intus legge, cioè l'intelligenza mi dice di leggere dentro le cose e dietro le cose. Cioè non ha sparato perché è pazzo, tifoso della Roma contro i napoletani, no, non è per quello. Ma guardi, ma può darsi benissimo che sia stato strumentalizzato, nella storia ci abbiamo tanti di quegli esempi di uomini che sono stati strumentalizzati con i loro vizi, difetti, limiti, ma in realtà i pupari che c'erano dietro raggiungevano ben altri scopi. Cioè gli inglesi io parlo di inglesi, per dire di gruppi sicuramente economici interessati per guardi di destabilizzare l'Italia, qualcuno ma non lo vuole c'è dubbio, ma non c'è proprio dubbio. Scusi, dopo quello che abbiamo visto in televisione, con tutte quelle circostanze così strane, il morto, la notizia che era stato ucciso un tifoso napoletano, nello stadio c'erano 90.000 persone già presenti, in giro per il mondo ci sono 60 milioni di italiani che sono interessati alle partite di calcio, il Papa che aveva detto lo sport del calcio deve servire per la crescita sociale, allora? Renzi che aveva parlato dicendo c'è una nuova Italia che sta risorgendo, allora? I capitalisti del mondo italiano nel mondo che vogliono investire in Italia, guarda caso alla fine di questo che abbiamo visto, questo reality dello stadio, poniamo le due domande ai capitalisti del mondo: voi siete disposti ad investire nel Mezzogiorno d'Italia o in Italia? C'è un complotto, contro l'Italia. Allora, ma un complotto contro non l'Italia. Non c'è proprio dubbio. Non c'è dubbio. Parenzo, no? Siamo al manicomio oppure c'è qualche traccia di verità? Io dico semplicemente hashtag è tutto finito, non ho neanche il tempo di replicare in alcun modo, io mi voglio semplicemente dopo questa teoria ubriacare questa sera. Benissimo, perché... però siccome la bomba lanciata dall'avvocato Tuccillo è seria, complotto internazionale nel caso di Ciro Esposito, di De Santis eccetera, da lunedì torneremo con l'avvocato Tuccillo. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo lunedì 18:30, la Zanzara viva! Viva? Viva che? Viva un cazzo? Mi avete fatto condurre in maniera ridicola oggi, ridicola, siete pazzi, senza nulla, senza luci, senza niente, vi voglio ammazzare qui a Roma, ciao. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Radio 24. La passione si sente.